il 10 e l'11 giugno a Vienna, alla presenza di più di 40 delegazioni di 40 diversi paesi, si è discusso a fondo sulle ragioni per cui il Movimento per la Pace chiede il cessate il fuoco e rifiuta la strada della guerra come risposta alla guerra. E a conclusione di queste due giornate, in cui si è ribadito appunto la necessità di passare dalle dichiarazioni, passare nuovamente alla mobilitazione, abbiamo accordato questa settimana di mobilitazione che appunto dal 30 settembre all'8 di ottobre coinvolgerà città e piattaforme nazionali, diverse parti del mondo. Non posso dire tutte le parti del mondo, tutti i paesi del mondo, perché è un azzardo, però le mobilitazioni si stanno confermando, si stanno organizzando dalle Americhe all'Europa, a paesi africani e anche qualche realtà asiatica. Quindi finalmente siamo riusciti a riavviare e tessere nuovamente quella trama del Movimento Internazionale per la Pace che nel 2003 portò in piazza milioni di persone per dire no alla guerra in Iraq. Oggi non siamo nel 2003, la galassia della pace è molto più frammentata, però abbiamo dato un segnale, credo, importante. Vedremo alla fine di questa settimana i risultati. Quali sono gli appuntamenti più importanti di questa mobilitazione? Per quanto riguarda l'Italia è senza dubbio la manifestazione che faremo il 7 ottobre, no? Dove appunto abbiamo creato questa convergenza insieme ad altre piattaforme per chiedere l'applicazione della Costituzione. Per quanto riguarda il Movimento per la Pace è l'articolo 11, cioè chiedere alle nostre istituzioni il ripudio della guerra e usare tutte le risorse, le energie per il negoziato. Ma in Germania ci sono state varie mobilitazioni e soprattutto ieri, 3 ottobre, c'è stata una grande mobilitazione in Germania. Negli Stati Uniti ci stanno mobilitando gruppi in più di 40 città, in Spagna, Belgio, Austria, Irlanda, in Svezia, Norvegia. In Europa abbiamo segnali interessanti da diverse nazioni. Quello che vorremmo è che queste mobilitazioni, che hanno al centro appunto il cessate il fuoco, di nuovo la richiesta di fermare la guerra in Ucraina, di fermare tutte le guerre, e vorremmo arrivare poi a convocare un incontro a Bruxelles, proprio nella sede del Parlamento europeo, proprio perché riteniamo che l'Europa sia la grande assente nelle proposte di negoziato. Proprio non c'è una proposta di negoziato che venga dall'Europa, e questo è un grande problema. A proposito di guerra in Ucraina, uno dei temi che sicuramente è stato al centro del dibattito è anche la questione della fornitura di armi. In Europa qualcosa sta cambiando anche in seguito ad elezioni. Negli Stati Uniti abbiamo visto che Biden ha dei problemi con il Congresso proprio per le ingenti risorse. Ovviamente queste non sono scelte pacifiste, ma sono scelte economiche. Qualcosa però sta cambiando nella volontà di portare avanti questa guerra? Sì. Lentamente sì, appunto, purtroppo non è per la consapevolezza di fermare la guerra e sedersi attorno al tavolo, ma è per la stanchezza dell'opinione pubblica e dei bilanci degli stati a sostenere un costo incredibile, cioè parliamo del più di 100 miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti e oltre 80 miliardi di euro da parte dell'Unione Europea a sostenere appunto quello che è un disastro ambientale, una mattanza di quasi mezzo milione di persone tra ucraini e russi. E quindi sì, si sta inceppando la macchina della guerra, si sta inceppando, e speriamo che questo sia, a questo si unisca quello che è appunto l'impegno per risolvere attraverso la via politica questo conflitto, che deve finire. L'unica possibilità di porre fine, lo hanno detto i generali americani, è quello di sedersi attorno al tavolo, cioè attraverso le armi. Questo è un conflitto che non si può risolvere, perché se si risolvesse sarebbe una guerra mondiale, quindi la distruzione.